c'era mio nonno, s'annava all'osteria, che stava ogni via, non c'era da sbaglia. E col bicchiere di vino facevi la zuppetta, col tarluccio tosto, che tosto non è più. Ultima serenata, me voglio fa stanotte, saluto a mezzanotte e me metto a cantare. Casetta della stele e casa di mamma mia, non ci so più girani, hai un profumo a sta via. Quando per scampagnata s'annava a San Pancrazio, adesso muoio uno strazio, falla sull'autostrada, con dentro al frigo borsa, la coca e i livagnini, perché sti ragazzini mangiano ormai così. Noi fava e pecorino, e poi la botticella, s'attaccavamo a quella, mondo d'attacchi più, chi dare il mandolino, che belle embriagate, fra pizzichetta state, e tanto per cantare. A bella voce rocca di qua. E fermo queste manacce. Casetta di Trastevere, casa di mamma mia, non ci so più girani, un profumo a sta via. Quando c'era mio nonno, s'annava all'osteria, che stava ogni via, non c'era da sbagliare.